Di che stiamo a parlare? Di che parliamo? Mo dica lei, di che volevo parlare? Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Don't you shut your eyes and hide your heart behind the shadow. Doppio passo di Lemina che si accentra, arriva al limite, calcia col destro, segna un gol meraviglioso, Lemina. I'll carry you through the night, through the storm, give you love, only love in return. Torna per Allan, in mezzo, Kayekon, Kayekon, 3-1. Da solo è Sharawi, uno contro uno, recupero della difesa e Sharawi dentro! Diego Perotti, 3-0. Il tocco ancora per Ljajic, zona tiro per lui, attenzione, limite, la porta sul destro, Adem Ljajic ha sbloccato per l'Inter, è 1-0, il terzo gol in campionato. Salico sul fondo, mette il cross teso, il pallone passa, Sansone fa 2-0, l'assist di Versalico, il gol di Sansone, il quarto del Milan in carriera. Si ferma la musica e il Milan rimane in piedi, eliminato da questo gioco, semmai è stato parte di questo gioco. La Fiorentina divide la sedia con l'Inter, gioco lo conoscete, no? Siete stati all'asilo. Pierluigi Pardo, buongiorno. Come va amico mio? Tutto bene? Bene, benissimo. Meno bene per Mihajlovic, disubbidiente ed eliminato, eh? Eh sì, 800240024, numero verde. Ti è piaciuta l'Inter? Ma sì, mi sembra che ci siano dei segnali, però posso dire una cosa impopolare, dipende anche molto dal Palermo, eh. Sono molto curioso. Insomma, io tra l'altro farò Palermo-Napoli domenica, vedo una squadra in caduta libera da parecchie partite, forse troppi cambi in panchina, forse sì. Forse io ho perso il conto. No, Palermo rischia grossissimo, lo pensavo prima di ieri, dopo ieri sera lo penso ormai, lo dice anche la classifica, ecco. Sì. Soprattutto se il Frosinone continua a essere una squadra logica nella sua debolezza, se mi passi l'espressione, sì, consapevole dei suoi limiti, ma molto più squadra in questo momento del Palermo. Poi parliamo anche ovviamente di tutte le altre, Roma, Milan, certamente, Juventus, Napoli, Palermo, Regina, Reggiana, Frosinone, Foggia, dove gli ultras sono saliti sul pullman e hanno cercato di ammazzare i giocatori, di tutto questo. A proposito di Stellone, sai, oggi sono le panchine d'oro, no? Sì. La cerimonia delle panchine d'oro, panchina d'oro ad Allegri, secondo in classifica Pioli, terzo Sarri per lo scorso campionato di Serie A. Stellone ha vinto la panchina d'argento, miglior tecnico della Serie B. Ma sai cosa ha detto? Ha detto la panchina, cioè questo premio lo meritava Castori, secondo me. Sì. Però decisivo è stato il mio voto. Non male, eh? Non male, sia come divertimento che come, sì, come onestà intellettuale. Sì, sì. Allora, i temi sono un sacco, compresa la storia che è arrivata come una valanga sul weekend del calcio, dell'apertura del calcio, dei parrucconi della FIFA e della UEFA alla televisione in campo, chiamiamola moviola in campo per comodità. Facciamo come volete, voglio sentire anche la vostra opinione. Ci fermiamo un attimo. Traffico. E poi c'è Collina, eh? E poi Pierluigi Collina, appunto. 800 24 0024, numero verde. Tutti convocati. Sconvocati. Annunciato già da Pierluigi Pardo, lo saluto e lo ringrazio, Pierluigi Collina, il responsabile degli arbitri UEFA, dopo essere stato il miglior arbitro del mondo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno voi e a chi ci ascolta. Buongiorno. Come va? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. A bordo di un aereo in direzione Wolfsburg, dove domani c'è una partita di Champions League. Poi un giorno mi spiegherete questa definizione parrucconi, che francamente... meglio altipapaveri? Io credo che derivi da questa abitudine dei giudici inglesi a sì, certo. Andare in aula tuttora con queste parrucche bianche sì, sì. quando appunto devono assistere sì, una causa. Però se poi uno conosce le persone che effettivamente siedono in questo IFAB, credo che tutto meno che anziani, tutto meno che parrucconi. No, ma poi questa volta detto da me credo che possa essere accettato. A iniziare da Infantino, che sì, ovviamente... sì. anche da me sì, si potrebbe anche pensare che ci sia una correlazione inversa fra il numero di capelli, però insomma questo è un altro discorso. No, devo dire, sono stati particolarmente progressisti, perché insomma comunque questa è una rivoluzione, anche se poi in realtà forse bisogna andarci piano, perché è una sperimentazione, perché ovviamente alcuni spazi rimarranno. Scindiamo in due. La grossa rivoluzione, ancorché possa non sembrare così, la grossa rivoluzione è stata quella del regolamento, nel senso che dopo credo 30-40 anni è stata fatta veramente una revisione totale del regolamento in termini di struttura, in termini di testo, ma anche in termini di contenuti. Molte sono le cose che sono state cambiate e questo veramente è l'aspetto maggiormente rivoluzionario. Poi certamente l'introduzione di un test sul video assistance refereeing sicuramente è qualcosa di importantissimo e che ovviamente ha catturato l'attenzione mediatica. Mm. Io e Pierluigi abbiamo sempre dei dubbi, però le devo dire, perché almeno io personalmente sto nella riserva indiana, ma non perché sono conservatore, nella riserva indiana di quelli che hanno salutato con enorme entusiasmo la goal line technology, che è una rivoluzione, è qualcosa di rimandato per troppo tempo. Ma l'errore e l'imperfezione nella sua semplicità e fluidità nel calcio comunque a me piacciono, cioè non provo la necessità della certezza del diritto in questo gioco. Credo che nelle riserve indiane siano pochi, la maggior parte solitamente ha un'opinione diversa. Oggi si chiede al calcio risposte certe, o comunque non si vogliono errori sul terreno di gioco. Il fatto che un errore venga commesso da un arbitro non perché non sia preparato, non perché non sia bravo. Oggi abbiamo arbitri sicuramente molto più bravi e molto più preparati, lavorano molto di più con mezzi, con supporto che gli stiamo dando, molto più che in passato. L'errore molto spesso dipende dal fatto che oggettivamente in campo non si può vedere qualcosa che invece una delle 24, 28, 34 nella finale degli europei ultima telecamere con HD, con super HD riescono a fare vedere. Oggi queste telecamere riescono a fare vedere qualcosa che dal campo non si vede. Allora, se l'arbitro deve essere criticato, se gli errori dell'arbitro non vengono accettati unicamente perché qualcosa fa vedere che è successo qualcosa, beh, diamo anche all'arbitro la possibilità di utilizzarlo. Poi stiamo sempre parlando di un trial, stiamo sempre parlando di un test, stiamo sempre parlando di una sperimentazione che necessita del tempo addirittura per passare dalla fase in vitro, concedetemi il termine, okay, alla fase on air, alla fase vera. Prima del 2017-2018 ben difficilmente potrà essere qualcosa di concreto, magari ci sarà qualche amichevole, magari ci sarà qualche partita spot, ma il grosso della sperimentazione di qui al 2017-2018 verrà fatto appunto offline, per cercare appunto di settare il sistema. Sì, certo, anche perché Pierluigi Pardo mi insegni, il calcio in TV è realtà virtuale, bisogna portare questa realtà virtuale alla realtà vera, che è quella che vede l'arbitro. C'è anche ti faccio un esempio. Storicamente, fino a qualche anno fa, le immagini, il frame televisivo, come si dice, era un 24esimo, un 25esimo di secondo, cioè un secondo le telecamere di tipo tradizionale potevano mostrare 24 diverse immagini, ovviamente in sequenza. E oggi con le telecamere di nuova generazione si arriva ad avere più di 10.000 fotogrammi al secondo. Quindi questo significa che per avere la certezza su un contatto, mi viene in mente quello di El Shaarawy, per esempio, con il Real Madrid, dove veramente stiamo parlando di una frazione di secondo prima o dopo rispetto all'impatto del pallone, oggi le telecamere possono darti una certezza nettamente superiore rispetto a prima. Però la domanda filosofica rimane quella, cioè che cos'è il calcio? Nel senso che se stiamo superando addirittura l'occhio umano, cioè se andiamo attraverso la tecnologia a vedere cose che l'occhio umano, nemmeno quello nostro davanti al teleschermo con una moviola di tipo tradizionale, ti può raccontare, beh, da un lato avremo una certezza, e quindi questo da un punto di vista poi della logica è positivo. Dall'altra però stiamo raccontando una realtà che nessun uomo, nemmeno un uomo bionico, riuscirebbe a vedere. Quindi questo secondo me rimane il vero tema. Io sono, lo dicevo anche ieri, sono felicissimo che ci sia la tecnologia, perché credo che soprattutto sulle situazioni metriche, quelle delle situazioni di fuori gioco, la goal line technology sia un grande supporto. Sul resto, secondo me, la discrezionalità dell'arbitro la si può un po' ridurre su certe situazioni per evitare di incasinarsi la vita, ma rimane. Cioè il tipo di danno procurato, se è rilevante o no per un rigore, questo rimarrà sempre appannaggio degli arbitri, o no, Collina? Ma io credo proprio che ci siano diverse situazioni che potranno essere valutate e in funzione delle loro caratteristiche potranno ottenere delle risposte. Magari ci potranno essere risposte certe, tu menzionavi prima il fuorigioco, ancorché avendo 300 frame in un secondo, in funzione di quale frame tu vai a scegliere, magari puoi far vedere qualcosa o qualcosa di diverso. Anche questo è un aspetto assolutamente da valutare. Però poi ci sono delle situazioni che riguardano l'entità di una spinta vista in campo, vista con le immagini televisive, può essere diversa. Vista una velocità e vista un'altra velocità, può avere o può dare una risposta completamente diversa. Io ho detto, non aspettiamoci che sia la soluzione a tutti gli episodi, è la verità. D'altronde l'obiettivo non è quello di valutare tutti gli episodi, l'obiettivo è prendere in esame i match changing errors, cioè situazioni che veramente possono andare a cambiare il risultato della partita. Ovviamente, se le immagini saranno in grado di dare una risposta, saranno probanti; se non lo saranno, verrà comunque rispettata la decisione dell'arbitro. Sì, molti hanno evocato nel richiamare appunto la tecnologia in campo l'esempio del rugby o anche dei messaggi, ma se i mondiali di rugby non possono usare la stessa tecnologia, hanno cercato anche falli come mano sul collo, eccetera. Però proprio il rugby, ieri abbiamo avuto il responsabile italiano degli arbitri. Anche nel rugby ci si sta interrogando, perché ai mondiali hanno fatto diverso casino e stanno pensando di tornare indietro, cioè ad un minore impiego del TMO, un minore impiego della tecnologia che prima veniva utilizzata per situazioni grosso modo di meta. Questo vi ha fatto riflettere? Io sono assolutamente d'accordo con Gianni Infantino quando ha detto che noi non dobbiamo guardare gli altri sport. Il calcio ha delle particolarità, delle peculiarità che lo rendono diverso da tutti gli altri sport. Primo fra tutti la fluidità del gioco. Non ci sono altri sport, non ci sono altri giochi che hanno la fluidità, la continuità di gioco che ha il calcio. E poi, tutto sommato, il calcio ha un ruolo di avanguardia in termini di visibilità, in termini di importanza, in termini di gente che lo pratica e che lo segue. Per cui non credo che debba ispirarsi ad altri. Certamente anche nella conferenza stampa che ha fatto l'IFAB al termine della riunione di Cardiff, Jonathan Ford, che è il CEO della federazione gallese che ospitava il meeting, ha citato proprio, su domanda di un vostro collega, ha citato proprio il caso del rugby, dicendo che in Galles molti stanno riflettendo sull'effettivo vantaggio di avere il TMO. Sì, sì. Certo. Senti, ma il triple o triple, a seconda dei punti di vista, punishment, cioè quelle situazioni in cui la sanzione complessiva diventa esagerata, anche lì ci sono novità importanti, no? Questa è stata, diciamo, una battaglia vinta. Credo che tutti avessero un parere unanime sul fatto che andasse rivista il fatto che un giocatore, per avere fatto un fallo, per avere magari cercato di giocare onestamente il pallone, venisse punito con un rigore, che molto spesso viene trasformato in un gol, con un'espulsione e con la squalifica per la partita successiva, era era sentito da molti come esagerato. Stiamo parlando, ribadisco, di situazioni nelle quali un giocatore cerca in maniera onesta di giocare il pallone, e cioè di fare il proprio lavoro. Pensiamo al portiere, esce sui piedi di un avversario, magari arriva una frazione di secondo in ritardo, l'avversario sposta solamente il pallone, perché non ha, molto spesso l'attaccante non ha interesse a mantenere il possesso del pallone, è solamente interessato a toglierlo dalla disponibilità del portiere. Il portiere subisce un calcio di rigore, l'espulsione, devi sostituire un attaccante per mettere un altro portiere, la partita viene completamente rivoluzionata. Falsata, sì. Abbiamo spinto la UEFA, con Gianni Infantino, segretario generale, ha spinto negli ultimi anni, purtroppo non avevamo avuto ascolto, finalmente è stata cambiata, per cui dal prossimo europeo, perché questa va in vigore dall'europeo 2016, dal prossimo europeo il giocatore, portiere o difensore che sia, all'interno dell'area di rigore nega una chiara occasione da rete, facendo però un intervento con il quale cerca di giocare il pallone, cerca onestamente di giocare il pallone, viene punito con un calcio di rigore, una ammonizione, mentre spinte, mentre trattenute, mentre falli fatti da tergo senza possibilità di giocare il pallone, fallo di mano ovviamente, perché fallo di mano non è cercare di giocare il pallone. Questa è veramente sacrosanta. Sì, assolutamente. Assolutamente. Credo che sia capitato almeno 20 volte che ci siamo detti che tante volte dicevamo la regola è assurda, e adesso finalmente questa va in credo che sia stato, ribadisco, sia stato un successo. D'altronde questa regola è nata negli anni 80 in una finale di FA Cup tra West Ham e Arsenal, proprio perché un giocatore dell'Arsenal aveva atterrato 8 metri fuori dall'area, un giocatore del West Ham che stava andando dritto in porta, atterrandolo con uno sgambetto da dietro, e fu l'arbitro ammonì giustamente il giocatore, perché allora le regole gli dicevano di fare questo, e tutti dissero: ma come, un calcio di punizione non può compensare quell'azione da rete? Diciamo che un calcio di rigore non è un calcio di punizione. Sicuro. Senta, le chiedo un'ultima cosa. Dire un'altra cosa che volentieri. Cioè, tengo molto, volentieri. È stata inserita, è stata cambiata. Purtroppo avevamo una situazione di, secondo me, non fair play. Il giocatore che subiva un fallo duro da un avversario, con l'avversario ammonito per questo fallo, il giocatore che appunto subiva un infortunio, entrava il massaggiatore in campo, il medico in campo, era costretto a lasciare il terreno di gioco, e la squadra avversaria, cioè la squadra del giocatore che aveva commesso il fallo per il quale era stato ammonito, giocava in superiorità numerica. Se andate a rivedere l'anno scorso, c'è stato un caso in Genoa-Cagliari nel quale il Genoa ha segnato un gol in superiorità numerica proprio perché gli avversari, il Cagliari, avevano un giocatore fuori per un infortunio causato da un avversario che era stato ammonito per questo intervento, cosa non corretta. Ricordo nel 2014, prima della finale di Europa League a Torino, in conferenza stampa insieme a Platini, mi era stato chiesto cosa vorreste cambiare di regola. Io avevo così vaticinato il cambio di questa regola. Due anni dopo ci siamo arrivati, e oggi, dal primo di giugno, dall'europeo, il giocatore non è più obbligato a lasciare il terreno di gioco, può essere curato sul terreno di gioco non lasciando la propria squadra in inferiorità numerica. Quindi il gioco rimane fermo? Il gioco rimane fermo ovviamente per un tempo limitato, se il giocatore ha bisogno di 3 minuti di cure, ma queste sono eccezioni. Normalmente le cure di cui ha bisogno sono quelle di 30, 40, 50 secondi, le cure standard. Perfetto, io la ringrazio molto, buon lavoro. Grazie, buon viaggio. Voi, grazie. Buon viaggio, Pierluigi Collina. Posso dire che il tribal punishment è veramente una cosa proprio veramente giustizia è fatta, perché quante volte, quante situazioni, soprattutto il portiere era veramente, è una cosa ridicola, e ogni volta ci troviamo qui a dover dire proprio dura lex sed lex, veramente era una cosa, e invece fortunatamente è stata tolta. C'è voluto un sacco di tempo, sarà un po' più difficile magari per gli arbitri, perché mi sembra che dovranno valutare una situazione abbastanza borderline. Ma no, guarda, perché in realtà è la stessa fattispecie degli interventi normali, cioè quello che l'anomalia era che in situazioni di chiara occasione da gol, che nel caso del portiere, ad esempio, è praticamente sempre, perché se il portiere interviene e manca l'intervento, è ovvio che siamo a un metro dalla porta, e era prima che in caso di chiara situazione da gol, invece del giallo, venisse dato il rosso. sì, e sì, adesso non verrà dallo più rosso, a meno che ovviamente poi se l'intervento invece è violento, beh, chiaro, allora è un altro, è allora violento, è un altro discorso, è violente, quindi non è onesto, no, come si diceva sì, prima, sì, sì, allora il rosso diventa in rapsa. Ci fermiamo per la borsa, poi torniamo, però 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Parleremo un po' di allenatori, di panchine che vanno, che vengono, che salgono, che scendono. A dopo. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Abbiamo solamente 3 punti di vantaggio, il campionato si deciderà, io credo, all'ultima giornata con i minimi distacchi. Io sono innamorato del ciclismo, fin da bambino, e mi ricordo quando ero piccolo che c'era il Cannibale e di Merz, Tour de France non ce n'era per nessuno, Cannibale sono loro, purtroppo noi siamo Thévenet o Cagnat, però un anno ha vinto Cagnat. Secondo me bisogna fare un passettino alla volta e noi i passettini li abbiamo fatti tutti pieni, per cui più di così abbiamo sempre guadagnato terreno nei passettini fatti. Domenica scorsa avevo la febbre e al passaggio di D'Ambrosio mi è venuta febbre a 40, quindi per quello insomma poi non ce la facevo veramente. Devo dire che sono molto arrabbiato con noi stessi e anche con gli arbitri, però degli arbitri non voglio parlare, posso parlare della partita dove noi primi mezz'ora abbiamo dominato, ma come spesso succede non riusciamo a fare gol. Oggi Mihajlovic sarà arrabbiato anche di più, caro Pier, perché Niang fuori per tutta la stagione, verrà operato, lesione capsulo legamentosa della caviglia sinistra, ciao. E quindi o Balotelli o Menezza, auguri Sinisa, auguri veramente di cuore. Auguri di cuore. No, allenatori, abbiamo sentito insomma un blob degli allenatori del weekend, i principali, Spalletti, Sarri, Allegri in modo diverso ma sempre su, loro non mollano, Roma e Napoli rubano un po' di più l'occhio, la Juventus è una specie di monolite che insomma non risente delle intemperie nemmeno dei giovedì strani di Coppa Italia. Beh, il campionato è questo, il campionato è regolarità. Una gara di regolarità continua, dove non conta essere belli, conta essere soprattutto efficaci. Detto questo, la Juve è stata spesso bella, adesso sì, certo. È un po' pretestuoso secondo me dire che Roma e Napoli, sì, Roma e Napoli probabilmente nelle loro migliori giornate giocano un calcio forse ancora più divertente di quello della Juve, ecco. Detta così può essere accettabile, però la Juve sbaglia di meno, ha sbagliato di meno fino a questo momento e quindi è davanti e alla fine conta quello, anche se continuo a pensare che sia un campionato incerto, aperto, e adesso è un pezzo di calendario quello che sta per arrivare che potrebbe dare ancora più incertezza, perché secondo me la Juve ha qualche partita più complicata all'inizio, poi dopo toccherà al Napoli, però intanto dal punto di vista dello svolgimento del campionato ci potrebbe essere questa dinamica. È divertente Mancini con la battuta sulla febbre, assolutamente, sì, simpatico, quindi sappiamo che poi noi ormai li valutiamo anche dal punto di vista di comunicazione, uh-huh. E mi è sembrata assolutamente adatta questa battuta. Poi ne va a sentire un'altra di Mancini, Va bene. Per quanto riguarda Spalletti, io stasera all'Olimpico c'è grande entusiasmo perché Spalletti ha preso una strada che è una strada forte, coraggiosa, non guarda in faccia a nessuno, ne sa qualcosa Francesco Totti, però sta funzionando. Sembra quasi che si diverta certe volte nell'esagerare. Uscito dal campo di El Shaarawy con il giocatore ripreso davanti a tutti, non è la prima volta che succede, stiamo parlando di uno che che ha fatto il fenomeno l'altra sera, no? Mm-hmm. È proprio la sensazione di uno che arriva per cambiare la testa alla squadra e alla città, che piaccia o no. Sì. E secondo me è andato giù durissimo. Sì, sta funzionando tanto e forse è la cosa più utile, forse meno popolare, ma più utile che serve a Roma. O forse era anche l'unica da fare. Forse era l'unica da fare. Forse era anche l'unica da fare. E ne ha avuto pieni poteri questo. Domani andiamo a Madrid, io penso che abbiamo, nel senso che io farò la telecronaca, è una partita ovviamente come senza sbocchi, senza possibilità, guardando la storia, però già il fatto che la Roma ci vada con l'atteggiamento di chi vuole provare a divertirsi, vuole provare a regalarsi una follia, ecco, già è positivo. Che già la Roma non vada lì con la paura di chi pensa oddio ne prendo 7 anche questa volta, ma che invece scenda in campo con la voglia di provare a stupire, è già questo, insomma, la dimostrazione del lavoro. Avanti con giudizio, perché Napoli bellissimo. Qualche volta dà l'impressione di guardarsi un po' allo specchio. Tu l'hai visto dal Napoli, campo, Napoli, no? Napoli è questo, però è anche il suo bello, secondo me, no? È una squadra che gioca un calcio offensivo strepitoso, che ha tanti giocatori che si divertono, che ha tanti giocatori di qualità. Che si divertono, sì, anche questa sensazione emerge perfino dalla televisione, che si divertono, sì. Giovanni, buongiorno. Salve. Salve. Allora, io ho ascoltato prima l'intervento dell'arbitro Collina, non tutto, innanzitutto non posso certamente competere per conoscenza con l'arbitro. Volevo fare alcune osservazioni. La prima è che il rugby non è il solo sport dove valgono le prove televisive, ma tutti gli sport americani, a mia conoscenza, dal football al baseball, la prevedono. Inoltre nel rugby io ho assistito ad una partita delle Sei Nazioni a Edimburgo. Non c'è solamente la possibilità per il pubblico di vedere sul megaschermo le cose che sono successe e diciamo i replay sulle quali poi si basa la decisione degli arbitri, ma c'è la possibilità di ascoltare tramite auricolare, sì, che è disponibile per tutti, tutto quello che viene detto dall'arbitro ai propri collaboratori e ai giocatori. Per cui veramente una trasparenza per me inusitata nell'ambito calcistico. Sì, non a caso, certo. Non a caso lo sport del calcio, che io amo molto, che ci sono tifoso da sempre, purtroppo ha avuto i propri vertici, e lo dobbiamo dire, forse l'avete detto, gravemente sanzionati recentemente, in misura pesantissima. Sì, questo lo sappiamo, però attenzione, su questa ragione Collina, il calcio deve fare il calcio, quello che fa il rugby compete al rugby, e ripeto, anche lì ci sono dei ripensamenti su alcune cose. No? Al di là del rugby, che sappiamo è un gioco come il calcio, che ha poche interruzioni, è un gioco dal quale c'è continuità. A differenza del basket, del football americano, il football americano sappiamo che ha un criterio cronometrico misto, sì, per entrare nel merito, però ci sono momenti in cui il cronometro corre e momenti nei quali viene fermato. C'è il tempo effettivo. Nel basket viene fermato, è uno di quegli sport dove ti puoi fermare anche 2 minuti a vedere un episodio e non muore nessuno. Nel calcio sappiamo che è un meccanismo diverso. Io credo che sia molto interessante quello che dice l'ascoltatore, perché in qualche modo ci racconta quello che dicevamo in qualche modo anche ieri sera su Infantino, cioè esiste da un punto di vista psicologico, da un punto di vista mediatico, una sorta di correlazione fra la ricerca di trasparenza che queste nuove norme, la moviola anche con un po' di enfasi, forse anche esagerata, può dare, e il bisogno del calcio di darsi una bella pulita dal punto di vista della coscienza, con tutto ciò che è successo negli ultimi anni, che ovviamente... Sì, Non è un caso che la prima riforma di Infantino sia una riforma che va in questa direzione. Poi è ovvio che sono due fattispecie diverse, no? La mazzetta che prende il dirigente, chiaro, del però, paese però sono legate, guarda, lasciami essere cattivo prima del traffico, l'ho detto anche ieri, te lo ripeto, sai come la penso, è anche una decisione molto populista in un momento in cui la FIFA deve recuperare consenso, quindi che cosa vuole gran parte del popolo del calcio? Noi siamo nella riserva indiana e Collina ci ha detto che scompariremo prima o poi fisiologicamente come gli indiani, però cosa vuole gran parte del popolo del calcio? Vuole la certezza del diritto, vuole la moviola, va bene, allora diamogli la moviola e immediatamente acquistiamo un po' di quella popolarità perduta. non lo so, sarò malpensante, ma la penso così. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Luigi Pardo, torniamo. Abbiamo... Sì, no, posso dire una cosa? Che sì. Io non voglio adesso estraniarmi dalla lotta, però io ti dico, forse io la penso in maniera un pochino diversa. No, nel senso, sono anch'io nella riserva indiana, però a scanso di equivoci, la mia opinione è che se ben venga la tecnologia, cioè se limita gli errori, io sono solo contento, perché non c'è niente di più triste dell'errore arbitrale, te lo dico, perché rimane sempre un velo di ingiustizia sulla partita, appunto i famosi, come si chiamano, la chiamata di collina, i game changer, sì. Quegli episodi che cambiano la partita, va benissimo. Se c'è la tecnologia che dimostra che un episodio avviene fuori area o dentro l'area o un fuori gioco, io sono solo contento. Io l'unica cosa che dico è che il calcio ha la sua peculiarità, ha la sua continuità, cioè il gioco non si interrompe, e non vorrei che lo spirito di questo gioco venisse cambiato più di tanto. Sì, esatto. E ribadisco, per esempio, sul fuori gioco, secondo me gioco è la classica fattispecie dove la tecnologia, secondo me, ci può far fare dei passi avanti clamorosi, no? Perché è un po' come quello che succede con la PlayStation. Chi gioca con la PlayStation sa benissimo che attenzione a non frugare troppo nelle tasche della discrezionalità dell'arbitro, arbitra il ma su alcune fratello. Cose su alcune su, cose non guarda, sul fuorigioco possiamo discutere, ma sul ad esempio sull'intensità di un fallo sono d'accordo su questo, con te. Su questo non sono d'accordo con te, perché quello che succede in campo poi hai detto tu prima cioè, siamo arrivati ad un livello di sofisticazione tale per cui, e tu lo sai meglio di tutti gli altri, la televisione vede cose che l'occhio umano non vede. Però e voglio allora... dirti, se il GPS è in grado di darmi un giudizio certo, così come succede sul no goal, sul gol non goal, sul fuorigioco, stabilito ovviamente che ci deve essere il perfetto sincronismo col momento nel quale viene dato il pallone, ma se noi abbiamo la possibilità di fare una mappatura precisa, corretta, migliore di quella dell'occhio umano, ma perché no? Ecco, per esempio, quello che non vorrei che si perdesse è lo spirito che è lo spirito dell'arbitro, anche perché poi stamattina, mentre mi mettevo d'accordo con Collina per il collegamento telefonico, lui mi raccontava anche il fatto che poi esiste un elemento anche di frustrazione per l'arbitro, nel senso che l'arbitro si allena tutta la settimana e poi delle volte l'arbitro lotta contro la tecnologia, no? Lotta contro le telecamere, e per quanto possa essere allenato, alcune cose non le potrà mai vedere dal punto di vista proprio bionico. Guarda, questa cosa qui un po' tecnica che ho detto prima della televisione è clamorosa, perché negli ultimi anni le telecamere, le super slow-mo cambiano tutto perché ti danno una suddivisione di un secondo che è nettamente, che è mille volte superiore rispetto a quella che succedeva prima. Sono cose che l'occhio umano da solo non percepisce. Pierluigi, buongiorno. Non parlo. Buongiorno. È sempre da Roma. Dica. Che collina. Sì. È il nome del giorno. Grazie per avermi convocato nonostante l'overbooking di Pierluigi. Dunque, io mi occupo di bilanci di sostenibilità calcio, di club, federazioni. Sono stato una delle prime persone a aver introdotto dei KPI, Key Performance Indicators, relativi proprio al mondo del calcio. Sto spingendo molto su questo aspetto e volevo intervenire proprio sulla questione Moviola in campo, tecnologia in generale in campo. La novità di Infantino mi trova molto molto felice e, diciamo, sono anche un po' sorpreso, perché eravamo abituati prima a combattere contro colossi granitici e quasi insondabili come FIFA e UEFA, mentre invece questo tipo di novità sono cose che sicuramente fanno bene al mondo del calcio. Nessuno ha da temere nulla, credo, da questa innovazione tecnologica, neanche gli arbitri stessi, voglio dire, perché a quel punto possono essere solamente aiutati dalla macchina, poi il loro giudizio rimane ancora più alto, ancora più insindacabile, secondo me è ancora più degno di buona fede. Sì, l'importante è che non stravolga la fluidità, la dinamica, l'essenza. No, ma questo non succederà, dai. Io penso, visto che il nostro ascoltatore si occupa di economia legata al calcio, questo è un altro tema di fondo che qualche volta è stato adombrato, no? Sì, certo. In un mondo che diventa non soltanto dal punto di vista delle passioni, che sono sappiamo, la cosa più importante che abbiamo nella vita, perché vincere il derby o perderlo fa tutta la differenza del mondo. Però in un mondo che diventa sempre di più anche un mondo commerciale, con delle aziende quotate in borsa, con degli investitori, insomma, la certezza del diritto nei limiti del possibile, nei limiti dell'umano, perché poi non è che nemmeno nella siderurgia c'è la certezza del diritto al 100%, no? Però in una roba come questa, così visibile, così importante, con così tanti investimenti, io credo che questa mini rivoluzione possa essere utile anche da questo punto di vista, perché c'è bisogno di trasparenza, perché poi ci sono gli investitori. Sì, perché poi è anche una questione di soldi. Certo. È anche una questione di soldi, di grandi investimenti. Abbiamo 1:10. Gino, buongiorno. Buongiorno a voi. Non la trattengo oltre colonne d'Ercole del GR, dica. No, io non entro nel merito della moviola sì, moviola no, ma penso alla condanna di Platini, penso a Collina, che il conflitto di interessi che ha essendo consulente del calcio ucraino, quindi forse bisogna parlare di tecnologia, ma bisogna parlare anche di uomini. E come la mettiamo con questi aspetti? La mettiamo che fino a quando uno agisce nei limiti della regolarità va tutto bene, quando uno esce dai confini della regolarità e viene pizzicato, punito, come è successo a Platini e a Blatter. No, c'è qualcos'altro da aggiungere? Che è un mondo, come diciamo l'altro giorno quando parlavamo con Dallera, è un mondo deregulato. Io vedo per esempio anche tutte le questioni, no, sui diritti, poi alla fine Belinazzo ci insegna che molte delle cose che sono state compiute, ovviamente poi la magistratura le accerterà, ma si legano anche al fatto che ci sono delle leggi troppo larghe, che se tu impedisci delle cose in partenza ti semplifichi la vita, se hai paura che ci possano essere conflitti di interesse. E poi per il resto vigilanza, ma non mi sembra ci siano altre ricette. Ci sentiamo domani, Pierino, Montichitaca stasera, Lippi Rivera, Pugliese, di tutto di più, sì, Magnanelli, sì. Ciao Pier, ciao. Saluti! Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Tutti convocati. C'è chi mi scrive che sono malpensante solo perché Collina non è più al telefono. No, ma Collina ci ascolta, spesso e volentieri, ed è un amico e comunque un personaggio che io stimo molto, però le mie idee e quelle sono e me le tengo. Ad esempio, lui stesso ha sottolineato che la più grande battaglia già vinta è stata quella delle modifiche che sono state apportate al regolamento, ed è questa la vera novità importante. Poi il resto vedremo se è demagogia oppure no. Ciao Alessandro Pasini, inviato del Corriere della Sera. Ciao. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Io prima ho detto a Collina che insomma io sono nella riserva indiana di quelli che la moviola non in campo non la vorrebbero vedere, e lui mi ha detto ma quelli della riserva indiana sono pochi. Vuoi sapere dove sto io? Ma guarda, è un tema delicato, perché come ho sentito giustamente anche prima nel vostro dibattito, insomma, il calcio è uno sport diverso, no, da certi altri sport che fanno un uso più massiccio della moviola in campo. Io credo che intanto con la Goal Line Technology si sia fatto un grandissimo passo assolutamente avanti, e questo non va dimenticato. Sia benedetta nei secoli dei secoli, indubbiamente. Davvero. Guarda, veramente non ho una posizione chiara, perché bisognerebbe vederla all'opera, perché per esempio l'allungamento delle partite, no? È un tema su cui si discute, si dice la moviola aspetta il ritmo, allunga la partita. Bisognerebbe vederla in atto e capire su che cosa. Io credo che su alcuni fatti tecnici non sia da utilizzare, comunque in campo meno. Penso per esempio al fuorigioco, insomma, o a certi falli, perché sennò la partita perde senso. Questo è la mia opinione, insomma. Per cui bisogna vedere le sperimentazioni. Potrei cavarmela dicendo usata con misura, sì. non vuol dire niente, diciamo che siamo in una fase di scherzi, è una fase di transizione, però è importante che se ne parli, no? Perché il calcio era un mondo talmente paludato rispetto ad altri sport. Sicuro. Che finalmente ha preso di petto la situazione. Allora il problema è non passare all'eccesso opposto, cioè no, ogni azione vederla viola. Se poi, no, poi io che sono particolarmente malizioso ho anche detto che in un momento in cui la FIFA è in totale crisi di popolarità, con grande furbizia può essere che abbiano deciso cosa vuole il pueblo della pelota, la moviola in campo, proviamo, diciamogli che la facciamo, magari ci riusciamo davvero. Ma dai, sono malizioso io, È una tesi interessante la tua, però in questo caso hai visto mai che porti a qualcosa di buono? No, ascoltare il popolo, quindi vediamo, speriamo. Ascolta, facciamo qualche pagella che mi diverto molto. Dammi un voto al Napoli e alla Roma, che sono quelle uscite meglio da vincitrici di tappa questo weekend, se non altro per l'estetica, Sì. Tu dici alla giornata, un voto di giornata. Sì, un voto di giornata. La Roma altissimo, un bel 9, io direi. Al Napoli un bel 8. La Roma mi ha molto impressionato, devo dire, perché ha giocato bene, perché ha trovato continuità. Mi sembra che sia la squadra più calda del momento, no? Ecco, nella hot parade del campionato è sicuramente la migliore. E per questo credo anche che nella famosa lotta al terzo posto, insomma, sia nettamente favorita. Sì, nettamente, a punto. Nettamente. Io non credo che possa andare a mettere le mani sulla schiena del Napoli, però questo è anche questa è un'idea personale. Questo è bella cosa, 5 punti, perché poi il Napoli è la seconda squadra più botta, diciamo, lasciando stare la Juve, che è un po' fuori categoria, perché comunque va meravigliosamente, insomma, non c'è niente più da dire, io credo, su questa Juve. Però ecco, è vero che 5 punti, ma anche il Napoli sta bene, quindi sì, è difficile, capito? Cioè, quindi è difficile pensare a un recupero in questo senso. Però, insomma, allora, ieri Evra ha sparso petali di rosa sul nostro calcio, così. Ma innanzitutto io voglio rispondere alla gente che critica tanto il calcio italiano e spero che questa gente viene a giocare qua. Io quando sono arrivato mi ricordo che Tevez mi diceva: per fare un gol qua ci serve almeno 100 occasioni, perché difendano così tanto bene, in Italia sono pronti tatticamente. Io veramente anche a 34 anni sto imparando alla grande. In Inghilterra è più un show, è più, diciamo, come due boxer che si danno, mi dà, ti do, e quello primo che è stanco cade. Però in Italia è più un gioco di cesto, allora se tatticamente non sei bravo qua non puoi giocare, qua hai bisogno più di intelligenza che, diciamo, di talento, capito, Ale? In Inghilterra fanno a botte, qui si gioca. Le danno finché uno cade. Insomma, non è un'analisi sbagliata. Vra poi conosce bene la Premier League perché ci ha giocato ad altissimo livello, no? Per cui voglio dire, non è che parla per sentito dire. Del resto è un tema vecchio come il calcio e come il calcio italiano. Il calcio italiano è un calcio tattico, è un calcio dove per emergere bisogna faticare con la testa, ecco. Sì. Casomai i problemi del calcio italiano, lo sappiamo, stanno un po' fuori dal campo, però secondo me il prodotto che c'è in campo è sempre discreto, magari ci sono meno talenti, ecco, meno star rispetto agli altri campionati, ma se uno ama la tattica, insomma, l'equilibrio, eccetera eccetera, è sempre un campionato è un calcio da allenatori. Quindi 7 alle dichiarazioni di Evra. Diamo 7 alle dichiarazioni di Patrice Evra. Anche 7,5 perché è anche un grande giocatore. Cioè, d'accordo. Allora, ci sono invece queste dichiarazioni del signor Maurizio Icardi, che poi valuteremo. A chi era rivolto il tuo messaggio sull'Inter con le palle? No, era rivolto a tutti. Voi giornalisti avete fatto un po' di casino, ho letto sui giornali che avete criticato un po' Piero Ausilio per questo. È stato un po' per tutti, anche per quella gente che ci guarda da fuori. Però non l'abbiamo detto noi quello, l'ha detto Ausilio e Zanetti. No, l'hanno detto tutti. Questo casino l'avete creato voi sul giornale, no, questo no, non c'entra niente. Era twittato per quella gente che a volte ti vede e ti dice: guarda che dovete tirare fuori i coglioni, dovete fare bene. E per quello era la risposta a questo. Il voto bassino, Alessandro. Sì, voto 4 i giornalisti naturalmente, perché sempre i giornalisti colpa loro, sempre no? 4, sì, certo. Sempre, per definizione. Se poi no, Ausilio dice quelle cose, no, ma siete voi che l'avete scritta, ah, beh, no, okay. No, ma guarda, tra l'altro io ero presente, insomma, sì, Ausilio, certo. L'ha detto chiaramente e ha usato proprio quelle espressioni, insomma, si riferiva, erano furibondi con i giocatori dopo la prestazione, anzi la controprestazione con la Juve, no? Per cui insomma era inequivocabile. Ma insomma, il problema forse è la moda dei tweet, no? Cioè la moda di tweet, la moda dei social, contro la quale io non voglio dire niente perché ci mancherebbe, però è chiaro che poi devi assumerti un po' le responsabilità di quello che tweeti, no? E quindi poi mi sembra un po' una marcia indietro quella di Mauro Icardi, perché insomma parlare di palle è stato per primo Ausilio. Poi magari lui incontra qualcuno per la strada che glielo dice, ma d'accordo, però insomma ho letto riferimento immediato era lui, quindi anche a Maurizio per questo dovremmo dare un bel 4, però glielo compensiamo con un bel 7 per la partita di ieri e per il fatto che comunque a 12 gol come bomber non si discute. Per il resto è un ragazzo giovane, ma guarda, tra l'altro è meno casinaro di quanto sembra, insomma, un ragazzo che ci sta dentro, un professionista, poi ogni tanto, insomma, però dai, tweet a 23 anni non è grave. No, buon voto anche all'Inter di ieri. Sì, okay. Un buon voto. Parlo detto, vabbè, Palermo in questo momento è poca cosa, però a me l'Inter è piaciuto anche ieri sera. Ma guarda Carlo, poi c'è da dire una cosa, è vero, il Palermo è il Palermo, però siccome l'Inter ha sbagliato un sacco di partite cosiddette facili, e poiché io credo che il nemico principale dell'Inter in questi due mesi sia stata l'Inter, allora io dico che in fondo è un risultatone, insomma, al di là dell'avversario, perché il problema dell'Inter in queste settimane è stato lottare con i propri fantasmi, sì. Diciamo, vorrei dirti, mentali, ecco, spirituali e anche tattici, no? Adesso chissà, forse ha trovato una quadratura, quindi poi se tu hai il gioco e un'identità, poi diciamo chi incontri è meno importante. Non a caso, se pensiamo a un dibattito che c'è stato in queste settimane, no? Con la Juve si è andati a giocare a specchio, uguali, uniformandosi, molto coperti, e invece nelle ultime due partite c'è stata più una ricerca su se stessi, ecco, su una propria identità, che ha funzionato con la Juve, ha funzionato anche ieri. Io non so, per quel che si diceva prima, se l'Inter potrà arrivare al terzo posto, però insomma almeno sta lavorando su una... Sta lavorando su un'idea diversa, che è quella della qualità. L'Inter, sì, ha tantissima qualità davanti, tra l'altro ha 8 attaccanti e 5 mediani in rosa, 5 centrocampisti, quindi è anche un po' obbligata secondo me a giocare con 2 centrocampisti e 4 uomini offensivi. A onor del vero Mancini l'ha fatto tante volte, se ti devo dire, sì, perché sì, sì, sì. 4-4-2, 4-2-3-1 l'ha fatto tante volte, quindi non è che adesso dobbiamo criticarlo per un difensivismo, è proprio lo spirito, ecco, attaccare e mettere in moto, ecco, argenteria. L'avremmo detto noi, avremmo raccontato noi la storia delle palle, come dice Icardi. Magari ha ragione lui, però la differenza che ho visto con la Juventus anche ieri sera, a me sembra, diciamo, nell'atteggiamento, eleganti, quindi... nell'autoconvinzione. Poi ha ragione Mancini, hanno ragione, insomma, di quelli che fanno calcio, che fanno sport, a dire, ma non è che noi non ci impegniamo, questo è ovvio, non sono mai accuse di scarso impegno, però a volte no, c'è quel qualcosa di più, sì, che certo, ha la Juventus, che hanno quelle squadre vincenti, insomma, è un po' un'ovvietà, ma che ripetiamo, sì, che ripetiamo sempre. Però intanto se hai un'identità tattica chiara e una fisionomia, poi il resto viene di conseguenza. Naturalmente qualcosina è ancora da limare, perché la perfezione non c'è e secondo me ormai non ci sarà, perché siamo a marzo, però l'Inter insomma sta dando dei piccoli segnali. La Fiorentina è lì, il Milan è stato staccato, quindi finalmente l'Inter ha vissuto una buona settimana, due mesi. Diciamo sette e mezzo, anzi otto alla settimana dell'Inter, dai. Diciamo così. Sì, sette e mezzo, otto, perché almeno si è ossigenata. È come se avesse fatto una settimana bianca in natura, torna abbronzata e ossigenata, dai. Allora, c'è Galliani che conta i dobloni potenziali, secondo me molto molto potenziali. Io personalmente il mio sogno è, visto che sono 30 anni di presidenza Berlusconi, esattamente 30 anni, quest'anno è il 30° campionato, perché il primo nostro è stato 86-87 intero, abbiamo 28 trofei oltre tantissimi secondi posti, sarebbe meraviglioso, perché se vinci la Coppa Italia hai la possibilità poi di giocarti anche la Supercoppa Italiana, e quindi chissà, il mio sogno è 30 anni, 30 trofei. Intanto, caro Alessandro Pasini, ci interroghiamo sui sogni di Galliani, ma anche sul voto peggiore tra Balotelli e chi l'ha fatto giocare. Mamma mia, vabbè, d'altra parte Balotelli è lì, è stato preso, e quindi se manca qualcuno bisognerà pur provarci. Però a Balotelli spiace, ma il voto è sempre quello, cioè sempre qua. No, direi che siamo plafonati su quel voto lì, perché non c'è mai uno scatto. Però voto ai sogni invece 8, perché sognare fa bene. Sulle possibilità invece, vabbè, è una finale, una finale, quindi poi alla fine... Sì, partita secca, vediamo anche come sta la Juve, quale impegno ha. Esatto. Però ecco, voto al Milan insufficiente in questa fase. Ecco, perché ieri mi ha molto deluso. Ieri è crollato totalmente dopo mezz'ora dopo aver subito il gol. Proprio crollato, scomparso dal campo. Non era partito male, ecco, ma infatti l'elemento preoccupante è quello, perché dopo essere partito bene, avere anche inquadrato bene la porta, insomma, aggredito bene la partita, preso il gol non c'è stata reazione. Questo è un segnale che lascia perplessi. Tant'è che Mihajlovic è furibondo, però insomma... Questo. D'altra parte, sai, è anche vero che quando hai un grosso periodo... Mi sa che anche Berlusconi, certamente. Una posizione sotto il secondo posto, sotto il primo posto, lo fa infuriare per definizione. Però comunque, diciamo, Milan deludente, insufficiente. È anche vero che quando passi un lungo periodo di crescita e di rimonta, poi insomma, non è che poi o fai filotti, appunto, stile Juventus, stile Roma, ma non avendo quei mezzi è un passo a vuoto, è fisiologico, tra l'altro contro una signora squadra che ha battuto tutte le grandi. No, guarda, è la Juventus che a Torino, prossimo impegno del Sassuolo. Attenzione al record di Gigi Buffon. Sassuolo, grande squadra, benissimo allenata, con alcuni giocatori sottovalutati. Penso per esempio a Mistiroli e Magnanelli, che sono due miei idoli contrastati del centrocampo, e non solo miei, ma di tanti che sento, appassionati di calcio, esperti, ma insomma di tanti altri, Sansone eccetera, oltre a Berardi, che però insomma, è già sulla bocca di tutti, è benissimo allenata, fa degli schemi pazzeschi sulle palle da fermo, sui calci d'angolo, insomma, guarda, voto complessivo fin qui 9 e non si discute neanche. Alessandro, ti chiedo un ultimo voto che non riguarda il calcio, ma l'inverno di Valentino Rossi. Ma io direi diamogli un bell'otto. Bell'otto, dai, voto, mi sembra che stia bene, i report sono tutti buoni, sia fisicamente che tecnicamente che psicologicamente, i tempi nei test sono buoni. Certo, se guardiamo come va Lorenzo, però siccome Lorenzo è da 10, secondo me ci sta a dare, in questo momento intendo, ci sta a dare 8 a Valentino. Dicono, si dice nell'ambiente che stia meglio dell'anno scorso, lui dice 37 anni come avevamo 36, cioè non è che cambia molto, in effetti, insomma, più o meno è quello. Sai, la chiave sarà vedere in gara, poi davvero è ovvio dirlo, ma la gara, quando si incontreranno finalmente di fianco, curva a curva, nella stessa curva, carena contro carena, lui e Marquez, allora vorrò vedere, vorrò vedere, perché finora, sai, poi i test di moto sono un gioco virtuale, cioè l'altro non lo vedi, poi... capisci, poi è la gara e io vorrò vedere alla prima curva, seconda, terza in Qatar e tutte le altre della gara Marquez e Rossi, lì si capirà Marquez cosa, Rossi cosa ci... e Lorenzo pure perché Lorenzo pure, però guarda, io sostengo da sempre che poi Lorenzo lì dentro è quello che Valentino tra i due sopporta, tollera di più, perché lo dicevamo una volta, lo stima tecnicamente e non lo considera diretto responsabile, quello che veramente, col quale io credo vorrà avere una resa dei conti sportiva, insomma, vorrebbe avere una resa dei conti, è sicuramente il famoso guardaspalle spagnolo Marquez, che tra l'altro sembra un po' in difficoltà, tra l'altro con la Honda, perché hanno dei problemi tecnici, insomma torneranno, perché la Honda è la Honda, e allora è lì che si vedrà se questo 8, no? Poi è un voto che ha senso o no, però è un voto di speranza. È un voto di speranza e un voto all'inverno, poi quando cominciano le prime curve, e non manca molto, perché il 20 marzo ci siamo, e allora siamo tutti lì. Sarà una grande notte. Sarà una grande notte. Grazie Alessandro, buon lavoro. Grazie davvero. A te, ciao. Ciao Alessandro Pasini, così abbiamo dato anche le pagelle al weekend, se non siete d'accordo ditelo. Loris da Reggio Emilia, poi c'è Andrea e Nicola. Buongiorno Loris. Buongiorno. Dica. Disamina perfetta, non so chi era questo signore che ho sentito tardi. Era il suo Alessandro Pasini, inviato del Corriere della Sera. Perfetto, disamina perfetta, ero a Reggio Emilia a vedere la partita ieri, quindi veramente tutto perfetto quello che si è detto. Per quanto riguarda Balotelli, secondo me c'è qualcuno che ha cercato di fare un favore a Conte, pensando che magari si potesse risollevare questo ragazzo, perché ad attaccanti per la nazionale non è che abbondiamo molto. Penso così, perché diversamente non ci sarebbe stata nessuna regola per portare in campo queste persone. Lì l'alternativa, Loris, se si vuole mantenere quel modulo, è Balotelli o Menez. Menez ha 10 minuti nelle gambe, perché al di là di tutto è stato fuori un anno, più di un anno, quindi è anche una questione di condizione. Certo, o uno o l'altro. Luis Adriano non è impiegabile neanche, come abbiamo detto prima, fuori tutta la stagione, e dunque non è che ci sia moltissimo da inventare. Al di là dei favori a Conte, che mi sembrano più virtuali che reali, perché Balotelli non va agli europei neanche se segna un gol a partita da qua alla fine, secondo me. Andrea, ecco. Riflessione sugli arbitri. Questa novità di Infantino mi sembra veramente importante, perché va nell'obiettivo di una sperequazione minore, cioè a dire di un riequilibrio generale delle sorti del calcio ad un certo livello, il che è positivo, perché lasciamo perdere il tifo che non ci interessa. Siamo nella radio di Confindustria, io sono un editore vostro, nel senso che sono un associato di Firenze a Confindustria. Perché dico che faccio questa battuta? Perché il prodotto calcio, da un punto di vista imprenditoriale, puzza, perché al momento in cui c'hai 5 campionati una squadra, poi 6, godranno i tifosi di queste squadre, per carità, sono contento per loro, ma il prodotto nel suo complesso non si può più guardare, cioè è finita. Allora l'unica chance è rendere di nuovo legittimi, regolari, effettivamente i campionati, dove umanamente gli arbitri, che non metto in croce, sono portati ad aiutare. Basta delle stiche dei rigori verso chi vanno, insomma. Andrea, però dobbiamo generalizzare, perché se parliamo di prodotto calcio svalutato, e se parliamo del nostro campionato, non è che in Germania, dove il Bayern vince da 6 ere geologiche, sia diverso. In Spagna la lotta è ridotta a due squadre / 3, in Francia non se ne parla nemmeno. Grazie al cielo ogni tanto spunta un Leicester a caso, come quest'anno in Inghilterra, perché altrimenti è sempre lì che si va a finire, eh? È sempre su quelle grandi. Piuttosto bisognerebbe ripensare a tante altre cose, compresa formulazione dei campionati. Voglio andare di corsa, scusandomi con Nicola da Latina, perché non riesco a parlare con lui, ma lo faremo certamente domani. Voglio farvi sentire al volo le tre chicche della settimana, le tre dichiarazioni top del weekend. Il primo è Mancini, che farebbe agli AIS che cosa? Sono arrabbiato su un'azione precedente dove le AIS ha avuto la palla da giocare per Perisic, che avrebbe fatto il gol del 3-0 e non l'ha passata, perché le AIS è un giocatore così, c'ha la testa che ogni tanto bisogna dargli un cazzotto, così, perché lui è un grandissimo giocatore, ha fatto grandissime giocate, ha fatto il gol straordinario, e poi anziché fare quel passaggio e chiudere la partita, no, e quello è stato il motivo perché abbiamo preso il gol. Evra e il vero Milan. Evra, ti saluta Alessandro Costacurta, che ricordo hai di lui? È grande. Grande. Sì, come no? Queste sono le leggende. Un maestro, possiamo dirlo. Grande, sì. Rispetto. Questo è il vero Milan. Ah, ecco, c'è già tac, la stoccata. Perché quello vero non c'è più. Infine Mihajlovic, che parla di quello del Milan attuale, che parla di Balotelli e Menez. Perché sembra che il capo avesse chiesto. Problemi che l'ho fatto voi. Menez. Lei ha detto Balotelli, Balotelli visto oggi molto male. Invece Menez bene. No. Allora, abbiamo sbagliato tutti e due, no? Giusto. Va bene. Va bene, ho tutti d'accordo. Giorgio De Luca, nostro autore, Andrea Roccabella in regia, Federico Mini in redazione. Ci sentiamo domani alle 2, tutti convocati. Signori, alla prossima!